Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Dietro a una finestra parzialmente coperta da una veneziana, in controluce, compare la silhouette seducente di una donna bellissima che con irresistibile sensualità inizia a ballare. Al di là del vetro, la osserva divertito il suo uomo. La donna inizia a spogliarsi, si sfila lentamente la giacca del suo elegante tailleur, poi i guanti, la gonna e via via tutto ciò che indossa abbandona il suo corpo in uno spogliarello da far girare la testa. È ovviamente la scena più celebre di 9 settimane e mezzo. Un cult dell'erotismo un po' patinato anni 80. Una scena che si scolpisce nell'immaginario di milioni di spettatori. Una scena che sarebbe impensabile senza il brano che la accompagna. You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker è diventata una sorta di inno alla seduzione, la colonna sonora di migliaia di improvvisati spogliarelli casalinghi. Il brano in realtà risale ai primi anni 70 ed è di Randy Newman. Nel testo della canzone il protagonista invita la propria donna a togliersi tutti gli abiti, permettendole ironicamente però di tenere il suo cappello. Cocker la incide nel 1986, riarrangiandola in modo trascinante e coinvolgente grazie all'ausilio di una piccola ma esplosiva orchestra. Quel pezzo segna probabilmente il punto più alto della popolarità di Cocker, il momento della massima notorietà presso il pubblico più vasto. Eppure a metà degli anni Ottanta, Cocker ha alle spalle già una carriera più che ventennale. Andiamo a vedere le origini, i primi passi e i magnifici destini di questo grande artista. Joe Cocker è difficile da incasellare in definizioni precise. C'è chi lo chiama semplicemente la voce bianca del blues, ma è una definizione che gli va stretta se si pensa al ruolo che Cocker riveste negli anni 70 in ambito rock, soprattutto grazie ad alcune straordinarie esibizioni live. Forse ciò che davvero caratterizza la sua vita e la sua carriera non sono tanto i generi e le influenze dentro cui incasellarlo, ma una sorta di energia sotterranea. Cocker è sempre stato un uomo e un musicista in continua lotta, contro gli schemi, contro se stesso, contro la sorte. Un artista indomito, insomma, in continua e costante ricerca. La nascita di Joe Cocker non sfugge a questa regola. Quando nel 1944 nasce nella provincia inglese, a Sheffield, subito deve lottare contro la poliomielite. E vince. Anche la sua famiglia è abituata a lottare. Infatti mamma e papà appartengono alla classe operaia, la cosiddetta working class inglese. Non certo gente che non sa stare al mondo. Per questo motivo l'infanzia e l'adolescenza di Joe trascorrono all'insegna del pragmatismo. Pochi fronzoli, tanta concretezza. I genitori lo vorrebbero vedere installatore di gas e gli regalano libri su libri sull'argomento, ma la passione per il canto e per la musica si affacciano prepotenti già in tenera età. Se torno indietro con la memoria, amavo fin da piccolo rockers come Little Richard e Jerry Lee Lewis, ma il mio preferito in assoluto era Chuck Berry. Io sognavo di essere Chuck Berry e giocavo fingendo di essere lui. Poi mi sono appassionato a Ray Charles e mi sono innamorato della sua musica, che ho amato per tutta la vita. Insomma, le mie radici sono rock e blues. Nonostante questo, quando ero molto giovane, avevo un lavoro, installavo filtri del gas e l'ho fatto per 5 anni. Lavoravo, sì, ma pensavo tutto il tempo alla musica. Era una specie di ossessione. E così, ancora ragazzo, Joe si trova una band con cui iniziare a cantare e provare a strimpellare la chitarra. Si sceglie anche un nome d'arte, Vance Arnold, e con questo inizia a esibirsi nei locali di Sheffield insieme alla sua band, gli Avengers. Cocker in questi primi anni è letteralmente bulimico di esperienze musicali, si cimenta con l'armonica ma anche con la batteria, che è un'altra sua grande passione. Si convince di poter essere tranquillamente sia vocalist che drummer, così come poi succederà molti anni più tardi a Phil Collins. La sua fame di musica lo spinge anche a rimaneggiare i generi e gli stili. Tenta infatti un'operazione esattamente opposta a quella su cui lavorano i Rolling Stones negli stessi anni. Invece di dare un suono british ai classici del rhythm and blues, spinge verso il blues le melodie pop dei Beatles. Yeah. La cosa inizialmente non piacque. Gli show degli Avengers si chiusero spesso con gli insulti del pubblico. Sviluppammo un'abilità straordinaria a schivare bottiglie e sputi del pubblico. Però poi la band fu notata da alcuni talent scout della Decca, che ci proposero di incidere un pezzo. Fu così che nacque I'll Cry Instead. Sono i primi passi che consentono l'inizio della carriera di Joe Cocker. Già, perché se il pezzo che incide per la Decca non ottiene un grande riscontro, tanto che la casa discografica decide di chiudere lì l'esperienza, è sufficiente per consentire al musicista inglese di fare il suo primo tour europeo. Tra l'altro, un tour originale, visto che Cocker e soci non si esibiscono nei soliti localetti disseminati per l'Europa che accolgono rocker di belle speranze. No, loro suonano nelle basi americane dislocate in giro per il vecchio continente. Gli Avengers prima e i Big Blues poi sono esperienze destinate a durare poco, ma che formano lo spirito di Cocker e lo convincono sempre di più che sia sulla strada giusta. Quello che gli serve sono dei compagni adatti. E così, nel 1966, recluta Frank Miles alla chitarra, Freddie White alla batteria, per fare da alfieri alla sua voce graffiante. Ma il magnifico destino, quello che gli cambia radicalmente la carriera, è quello con un uomo che va a sedersi dietro alle tastiere e che a volte imbraccia anche il basso, Chris Stainton. Christopher Chris Stainton è considerato semplicemente uno dei più grandi tastieristi della storia della musica. Nati lo stesso anno e cresciuti nella stessa città, Sheffield, Joe Cocker e Chris si conoscono e diventano buoni amici. In fondo, quando si ha la stessa passione in comune, è facile trovarsi. E poi Cocker era rimasto davvero impressionato dal talento di Stainton quando lo aveva visto esibirsi con la sua band, i Cadillac. E così gli propone di entrare nella sua nuova band, la Grease Band. L'ingresso di Chris fu determinante. Inizialmente, per un certo periodo, suonò il basso. Quando passò alle tastiere, trasformò letteralmente la band, inizialmente un po' troppo spostata verso sonorità jazz per le mie corde, e ne uscì un esplosivo cocktail blues rock. Siamo in uno dei tanti pub inglesi in cui la Grease Band di Joe Cocker e Chris Stainton si esibisce nel 1967. L'atmosfera è calda, festosa, elettrica. Il gruppo è formato da abilissimi performer e Cocker stesso è un animale da palcoscenico. Già in queste prime esibizioni il gruppo propone un pezzo originale composto da Cocker e Stainton, intitolato Margarine. Negli anni 60 a Londra, al numero 90 di Wardour Street, c'è un locale mitico gestito da Harold Pendleton. Si chiama Marquee Club. Ha fatto la storia della musica e continua a farla ancora oggi, sebbene l'indirizzo non sia più lo stesso. Quando Cocker e Stainton sbarcano a Londra, proprio qui, in questo leggendario club, riescono a strappare un contratto per un ingaggio fisso mensile. In seguito a quella grandissima opportunità decidemmo di rifare completamente la band, prendendo nuovi musicisti che potessero dare un tiro diverso alla nostra musica. L'inserimento all'organo di Tommy Eyre aggiunse un elemento importante al nostro impatto e da lì iniziò tutto. I Beatles alla fine degli anni 60 sono ormai famosi in tutto il mondo e per una band inglese è quasi obbligatorio confrontarsi con loro. Anche Joe Cocker e soci lo fanno e propongono una canzone dei Fab Four che gli porterà decisamente fortuna. Si tratta di With a Little Help from My Friends. No, I get by with a little help from my friends. Quando la propongono live, ha un impatto talmente forte che il secondo magnifico destino di Joe Cocker, Danny Cordell, ne rimane decisamente impressionato. Cordell è un manager famoso nell'ambiente e ha nella sua scuderia band del calibro dei Procolarum. Quando vede Joe Cocker esibirsi non ha dubbi e gli propone di incidere il brano per la sua casa discografica. Fu una proposta rivoluzionaria per noi. Immaginatevi un semplice ragazzo di Sheffield che è arrivato a Londra insieme a Chris Stanton con un semplice singolo, Majoran, nella borsa, si vede chiedere da un manager di grido dopo un concerto: vuoi incidere questo pezzo per me, ragazzo? Chi vuoi come musicisti? Jimmy Page, Mike Kelly, Spooky Tooth, mio Dio, erano tutti artisti che adoravo e che ammiravo. L'idea di suonare con loro era incredibilmente eccitante. Ricordo che Danny ci accompagnò in giro per Londra per vedere quale dei musicisti citati fosse libero. Fu straordinario. Avemmo un anno intero per incidere quel singolo. Per registrare le parti di chitarra viene in effetti reclutato Jimmy Page e anche il resto della band non scherza affatto. B.J. Wilson alla batteria, Sue and Sonny ai cori, Tommy Airey all'organo. Rispetto alla versione dei Beatles, quella di Cocker risulta più barocca, più lavorata, più piena. Ne nasce un brano intenso ed emozionante, che diventerà una pietra miliare della discografia di Joe Cocker e che gli permette di rimanere per 10 settimane nella top 10 della classifica inglese. L'avventura della voce bianca del blues è iniziata. I magnifici destini. Something in the way she smiles for me. I don't want to leave now. You know I believe in love. You're asking me. Il capolavoro di Danny Cordell con Joe Cocker e la Grease Band è l'organizzazione di un evento leggenda, un evento che lancerà nel firmamento della musica Cocker e soci, l'inserimento della band inglese nella scaletta di Woodstock. Cordell ha organizzato per la Grease Band e Cocker un tour americano che ha riscosso un buon successo. Woodstock è la tappa conclusiva, un epilogo che si trasforma in leggenda. 17 agosto 1969. È il terzo giorno di festival che vede riuniti quasi 500.000 di persone. Il secondo giorno si è protratto all'infinito in una straordinaria e travolgente maratona musicale. Gli U hanno iniziato alle 4 del mattino, i Jefferson Airplane addirittura alle 8 del mattino. Il primo a doversi esibire nella scaletta del terzo e ultimo giorno, domenica 17 agosto, è proprio Joe Cocker. Volai in elicottero fino al retro del palco e montai su. Tutta la mia band aveva preso l'acido, meno io. Chris Stanton mi diceva di rilassarmi, ma era difficile. Beh, devo ammettere che avemmo fortuna e ci esibimmo ad un'ora decente da vere rockstar, cosa che proprio non eravamo. Alle 14.15 circa, meno di 5 ore dopo la fine del concerto dei Jefferson Airplanes, la Grease Band sale sul palco e inizia a eseguire alcuni pezzi strumentali. Poi, con Dear Landlord, si apre la strepitosa performance di Cocker. Cocker mostra un'energia straordinaria che scuote l'oceanica platea di Woodstock. La sua voce ruvida e potente, la sua aria sofferta e intensa, la sua capacità di spendersi per il pubblico fino all'ultima goccia di sudore conquistano l'attenzione di tutti i giovani accampati sotto il palco. Cocker suona in tutto 9 pezzi, in un coinvolgente crescendo emotivo, in un silenzio quasi religioso, chiude il concerto con una versione live memorabile di With a Little Help from My Friends. With a little help from my friends. Remember it. eroe della mitologia giovanile, migliore voce bianca del soul. Sono tanti gli epiteti che il cantante inglese si guadagna dopo la sua esibizione a Woodstock. Dietro le quinte del concerto, inoltre, Cocker conosce Leon Russell, uno dei musicisti più apprezzati in ambito blues, con il quale inizia una proficua collaborazione, che si concretizza nel brano Delta Lady, inciso poco dopo Woodstock nel 1969, e in grado di raggiungere il numero 10 delle classifiche britanniche. What would you do if I say out of tune? Will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, il singolo è sempre prodotto da Danny Cordell, che propone al cantante un album solista che includa anche il pezzo appena inciso. Così Cocker decide di sciogliere la band e entra in studio di registrazione insieme al Fido Stanton per realizzare finalmente Joe Cocker, il suo primo album da solista. Fu un processo creativo straordinario, rapido, veloce, così intenso. Mi mise a disposizione un autentico plotone di musicisti straordinari con i quali riuscii ad esprimere liberamente tutte le idee che mi attraversavano la testa. Il disco è prodotto insieme da Russell e Cordell, che per l'occasione fondano anche una nuova casa discografica, la Shelter Records. Contiene qualche pezzo originale, ma per lo più cover, da Bob Dylan a Leonard Cohen, più gli immancabili Beatles. Dopo aver sentito With a Little Help from My Friends, Lennon e McCartney mi fecero i complimenti e mi diedero l'autorizzazione ad utilizzare nuovi pezzi loro nel mio album. E così ne inserimo due. I due pezzi sono Something e soprattutto She Came In Through the Bathroom Window, di cui Cocker offre una versione semplicemente strepitosa. L'album ha decisamente successo, tanto che finalmente viene organizzato il primo grande tour per Joe Cocker, un tour americano di ben 65 concerti in soli 57 giorni. Si chiama Mad Dogs and Englishmen ed è un vero e proprio circo musicale, una super band di oltre 30 elementi capitanati da Leon Russell e comprendente una decina di coristi, percussionisti e un'imponente sezione di fiati. Il tour riceve recensioni entusiastiche e fa il tutto esaurito in quasi ogni tappa. Mentre cresce la notorietà del cantante, aumentano anche i suoi problemi di alcol e droghe, tanto che alla fine del tour è costretto a una pausa per disintossicarsi. Proprio in quel momento vede la luce l'album Mad Dogs and Englishmen, accompagnato da un film che documenta la tournée e preceduto dallo splendido singolo The Letter. C'è una scuola di pensiero negli States che sostiene che un indice indiscutibile di popolarità siano le imitazioni che si subiscono all'interno del Saturday Night Live o di altri varietà televisivi. Joe Cocker, dopo il suo grande tour americano, può vantare un imitatore d'eccezione, in grado di riprodurlo in modo straordinario. John Belushi. I'm not feeling good myself. I know you feel all right. Belushi inizia a imitare Cocker nel 1972, trasformandolo in un suo cavallo di battaglia almeno fino alla fine del decennio, quando negli ultimi anni 70, ospite fisso del Saturday Night Live, proporrà le sue caustiche imitazioni. Il Cocker di Belushi ha l'effetto di aumentare la fama e la popolarità del cantante inglese, che inizialmente sembra anche gradire la parodia. Nel 1978, però, proprio al Saturday Night Live, i due si esibiscono insieme e Belushi passa un po' il segno, rubando la scena a Cocker e offrendogli con cattivo gusto una birra durante l'esibizione, per ironizzare sui suoi problemi con l'alcol. Il cantante non la prende bene. Mi ricordo che un giorno il produttore di Los Angeles, Gordy Hormel, venne da me e mi disse: «Ehi, hai visto la tua imitazione che fa John Belushi?» Io non l'avevo vista. Ma tutti intorno a me sì, e mi dicevano, forse per gentilezza, è disgustoso, fa un lavoro orrendo. Ecco, poi mi capitò di vederla e devo dire che secondo me faceva un gran lavoro quel ragazzo. Poi quando ci toccò esibirci insieme non sapevo cosa aspettarmi. E un conto furono le prove in cui sembrava quasi timido, osservava tutto ciò che facevo, era molto gentile, mi fece addirittura un tè. Al momento dell'esibizione poi andò molto diversamente. Popolarissimo, talentuoso, ma anche autodistruttivo. Gli anni 70 di Joe Cocker sono come delle montagne russe, picchi di popolarità, brevi ritiri forzati per disintossicarsi, momenti di oblio. Si riscatterà negli anni 80, grazie a un magnifico destino. So beautiful, i magnifici destini. Il talento, le qualità vocali e musicali di Joe Cocker sono indiscutibili, tanto sono evidenti. Eppure negli anni 70, nel decennio in cui la sua forza musicale era all'apice, Cocker non ha raccolto quanto avrebbe potuto. Un demone oscuro, difficile da domare, lo ha tormentato nel profondo, lo ha scosso, ferito, senza dargli tregua. Lo spettro oscuro della dipendenza dall'alcol e dalla droga. Seguivo una sorta di dieta liquida, iniziavo a bere alle 11 di mattina ed ero praticamente distrutto già nel tardo pomeriggio. La gente mi diceva che ho fatto splendidi concerti negli anni 70, ma in tutta onestà credo di aver suonato dignitosamente una volta su tre. Facevo spesso fatica a reggermi in piedi durante il concerto e arrivavo alla fine che ero fisicamente e mentalmente distrutto. Oltre all'alcol, avevo un problema con l'eroina e con la cocaina. Non mi sono mai iniettato eroina, l'ho solo sniffata. Mi sorprende sempre pensare quanto poco ci voglia per diventare dipendente. Sono stato abbastanza forte da uscirne, ma ci ho messo molto tempo e l'ho pagata. Sono davvero arrivato vicino al limite. Un carattere timido e introverso, la semplicità di modi che non regge il contatto con lo show business, sono tante le fragilità che spingono Cocker in quella direzione autodistruttiva, che finisce per rendere drammaticamente problematico il prosieguo della sua carriera. Un grande manager come Phil Kaufman, uno che ha lavorato per capirci con i Rolling Stones e con Frank Zappa, ha confessato la grande problematicità che ha incontrato tentando di organizzare un tour per Joe Cocker. Joe non è uno con cui sia facile lavorare. La moglie mi pagava per tenerlo lontano dall'alcol, cosa quasi impossibile. Era intrattabile, passava tutto il giorno a bere Bacardi e Diet Coke. La Diet Coke per non ingrassare. Poi saliva sul palco e sembrava un'altra persona. Riusciva persino a farsi perdonare, ma era impossibile pianificare cose a lungo termine perché non sapevi mai cosa sarebbe successo. Peccato perché uno come Ray Charles un giorno mi disse che Joe era il suo cantante preferito. Sta di fatto che all'inizio degli anni Ottanta Cocker sembra pressoché finito per il grande pubblico. La sua resurrezione avviene grazie all'incontro con un magnifico destino, la cantante americana Jennifer Warnes. Nata come corista di Leonard Cohen, dotata di una voce straordinaria che le consentiva di spaziare tra generi anche molto diversi tra loro, Jennifer Warnes era diventata famosa al grande pubblico con due hit, Shot Through the Heart e Right Time of the Night. All'inizio degli anni Ottanta viene scelta per interpretare il brano principale della colonna sonora del film Ufficiale e Gentiluomo, con Richard Gere. La Warnes e il suo produttore Stuart Levin individuano nella voce ruvida e graffiante di Joe Cocker il contrappunto ideale di Jennifer per allestire un duetto. Così Joe viene contattato e insieme alla cantante incide Up Where We Belong. La canzone è uno dei simboli degli anni Ottanta, insieme al film Ufficiale e Gentiluomo di cui è il tema principale. Il brano diventa anche un successo internazionale e occupa a lungo il primo posto delle classifiche in numerosi paesi. Si aggiudica inoltre numerosi premi, tanto da portare il duo a esibirsi alla cerimonia di premiazione dei Grammy, dove Cocker appare ripulito e finalmente in forma. È l'inizio di un percorso nuovo della carriera di Joe. Dopo un tour di beneficenza fatto insieme a grandi artisti del calibro di Eric Clapton e Jeff Beck, il nuovo Joe Cocker abbandona i lidi musicali finora percorsi. La raffinatezza della composizione e degli arrangiamenti non è più quella degli esordi. La ricercatezza ormai lascia spazio a una dimensione artistica un po' più patinata e pop, che garantisce tuttavia maggiore stabilità e continuità di successo al singer inglese. Così, i due pezzi simbolo della seconda vita di Joe Cocker sono You Can Leave Your Hat On, per la colonna sonora di 9 settimane e mezzo, e Unchain My Heart, altro brano che scala le classifiche di mezzo mondo e domina nelle radio più popolari. Definitivamente trapiantato negli States, Joe ha abbandonato gli eccessi degli esordi, continuando a raccogliere i frutti e le soddisfazioni della sua altalenante carriera. Il periodico Rolling Stone lo ha inserito nella classifica dei 100 più grandi cantanti di tutti i tempi, consegnandolo di fatto alla storia della musica. Non male per un operaio di Sheffield che sognava di assomigliare a Chuck Berry. Unchained my heart.